Abbiamo su Bologna quest'anteprima martedì 28 novembre al Medica Palace in centro, è la sala più grande dell'Emilia Romagna come molti saprete e puntiamo a riempirla. I biglietti sono già quasi finiti, quindi consigliamo caldamente di prenotarli online perché mancano veramente poche decine di biglietti e dal giorno successivo andrà in tenitura programmazione per una settimana e forse con anche repliche successive al Cinema Teatro Galliera, con il quale abbiamo, come sapete, un legame molto stretto. Stasera saremo anche in sala open come tutti i giovedì con due film del nostro catalogo e via discorrendo. Parliamo un po' del film invece, una storia incredibile che penso che se non avessi appena visto con i miei occhi tutto quanto non ci crederei probabilmente. Come avete tenuto tutto insieme? È stato sicuramente complesso sia a livello creativo che a livello produttivo. Ci siamo riusciti senza insomma dire frasi retoriche perché l'abbiamo fatto insieme, diversamente non sarebbe stato possibile. È una storia che abbiamo trovato da subito bellissima e affascinante, con tratti surreali molto divertenti ma anche con significati molto molto profondi, quindi insomma c'è stata una lunga fase di ricerca, di studio di tutta la storia, c'è stata una lunga fase di scrittura che abbiamo fatto appunto a sei mani, dove insomma ci siamo molto divertiti anche a inventarci delle cose ma anche a banalmente insomma a fare una lunga ricerca di archivio che ha portato poi ad amalgamare i vari archivi che ci sono nel film. Ma appunto è una storia insomma che meritava naturalmente di essere raccontata, e intorno a questa storia si sono unite tante persone anche del cast del film per raccontarla e sono successe tante tante magie che ora ci auguriamo naturalmente continuino, perché ora è il momento di vederlo e naturalmente aspettiamo con trepidazione il riscontro del pubblico, che poi è sempre la cosa più importante. Ecco, è importante anche la visione collettiva che sempre avete, no? Nella struttura, nel creare questi documentari. Una parola su questo? Beh sì, giustamente come ricordavi, allora noi SMK come collettivo sta per compiere 15 anni e questo è il 13° film prodotto in questo modo, quindi con un ritmo abbastanza intensivo. Quando intendo questo modo significa con la coproduzione popolare. Noi abbiamo sempre creduto fin dall'inizio nel cosiddetto crowdfunding come modello, ancora prima che esistesse il neologismo. Fin dopo film abbiamo consolidato questo tipo di strategia produttiva, che per noi ha sempre significato non semplicemente una raccolta fondi, c'è anche quella parte ovviamente del discorso, ma ha significato soprattutto un meccanismo comunitario all'interno del processo produttivo e poi distributivo, perché in tantissimi casi i nostri film sono stati aiutati nella produzione da singoli, associazioni, spazi sociali, spazi culturali di vario tipo, e poi sono stati anche supportati da queste reti nella diffusione stessa dell'opera. E questo è molto importante. Per noi la sfida di coniugare modelli diversi, perché è la prima volta che succede nel nostro caso, cioè la possibilità di avere contemporaneamente il sostegno della Film Commission Emilia Romagna, il sostegno del MIC, il sostegno del Comune di Pignano e una grandissima comunità di coproduttrici e coproduttori popolari, tutti insieme in questa grande comunità, è una sfida vinta. Prima ancora del risultato finale, che lasceremo ovviamente giudicare a chi vedrà il film in sala. Possiamo dire che non è il film dei CCCP, non è il documentario su di loro, ma racconta un po' come la cultura possa unire le persone più che dividerle. Sì, non è sicuramente un film sui CCCP, ma è un film con i CCCP. Loro ci hanno tenuto sin dall'inizio che si instaurasse questo tipo di modalità e credo che alla fine siamo riusciti. Loro sono molto presenti nel film, però non è un film su di loro. Molte cose della loro storia vengono date per scontate sia sull'inizio sia sulla fine. Quello su cui ci concentriamo noi è la storia del film, non la storia dei CCCP. Il tema centrale del film è come la cultura ha unito questi due luoghi molto distanti, queste due comunità molto, molto diverse tra di loro, tramite quest'idea pazza dei ragazzi di Melpignano che decidono di invitare le band sovietiche. Quindi sì, sicuramente anche il sottotesto politico del film riguarda come la cultura riesca ad avvicinare i popoli più che a distanziarli, come vediamo oggi.